Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico di Mestre, quindi ritroviamo il nostro amico presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, che è Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di tariffe variegate, tempi di attivazione certe volte non sono proprio così certi come pensiamo e magari di costi aggiuntivi nelle aperture, insomma, di contratti di vario genere. Sì, in particolar modo, Francesco, parliamo proprio di ADSL, perché è quella in cui normalmente all'Adico viene chiesto più frequentemente, visto che oggi si parla di internet, di connessione, velocità e pertanto come nella telefonia mobile, come negli operatori di gestori di fornitura di servizi a rete come acqua, gas eccetera, abbiamo deciso oggi di focalizzarsi nella DSL, magari nelle prossime puntate lo faremo per le altre cose. Nello specifico molti si rivolgono a voi perché quali sono i problemi che trovano appunto nelle forniture delle linee ADSL? Problemi, consigli e costi vorrei dire, perché in questo caso come in tutti bisogna sempre, come consiglio principe, decidere non quella che costa meno ma quella che è più confacente alle nostre esigenze, perché purtroppo bisogna valutare quelle che sono le nostre esigenze in un mare di offerte che a volte non possono rendere una proposta vantaggiosa antieconomica. Per quanto riguarda allora in questo caso la DSL, noi abbiamo messo a confronto un po' le compagnie più note, per esempio la Fastweb, la Vodafone, la Telecom, l'Infostrada e la Tiscali. Ciascuna di queste propongono dei costi fissi comprensivi di canone o non, ma anche dei costi di attivazione e dei costi soprattutto di cessazione. Perché? Perché la premessa di questo ragionamento che voglio fare è quella di ricordare che oggi molte persone si rivolgono all'Adico quando, cambiando gestore, si trovano a dover pagare dei costi che in realtà una volta non c'erano, perché Bersani aveva un po' liberalizzato completamente il settore, di cui invece adesso le compagnie hanno facoltà a voler applicare, e sono i costi cosiddetto di cessazione del servizio, comunque che possono andare da 70 a 90 euro. Comunque possiamo dire che innanzitutto i consigli principali sono in capire chi si appoggia sulla rete Telecom rispetto a chi non lo fa, soprattutto valutare bene le offerte di chi propone tariffe più vantaggiose, perché un operatore può essersi più vantaggioso da una parte ma investire meno in servizi come per esempio quelli di assistenza ai clienti, call center e quant'altro. Verificare, frequentare, navigare sul sito dell'Agicom, perché è molto importante in quanto è il garante di questi gestori, dove può anche verificare i reclami che ricevono, la velocità effettiva che rilevano, eppure anche i guasti più comuni, quindi può essere sicuramente un elemento molto valido. Soprattutto i costi, come abbiamo detto, di eccesso o di cessazione quando si decide di cambiare operatore, e soprattutto attenzione alle promozioni, perché poi a volte non ci sono solo dei costi ma ci possono vincolare anche per 24 o 3 mesi. Ho capito, quindi l'Agicom è il sito ad andare a vedere se ci sono problemi, per capire insomma quello che potrebbe capitarci guardando le cose che sono capitate ad altre persone. Sì, l'Agicom, ricordiamo, un po' il garante dove tutte le compagnie hanno un pochino reso conto delle loro attività, dove si possono individuare un po' tante risposte e farsi un'idea chiara di quelle che sono un po' i metodi che queste compagnie hanno quando operano. Soprattutto ricordiamo anche le compagnie, come abbiamo messo appunto a confronto quello che abbiamo detto, la Fastweb rispetto a tante altre, la Vodafone, la Telecom, l'Infostrada e Tisco, dove ognuno fondamentalmente propone dei costi fissi, per esempio la Fastweb 30 euro al mese, la Vodafone 29, la TIM 38, l'Infostrada 34,7, la Tisco 32, ma però poi differiscono per quelle che sono le chiamate che offrono dei pacchetti incluse, tutto gratuito verso i cellulari anziché rispetto ai fissi, per cui oggi non è che possiamo dire quella che è più conveniente rispetto all'altra, possiamo dire semplicemente valutatele con calma e non siamo troppo precipitosi a cadere mano a quelle che possono essere delle promozioni che poi in realtà, come detto, per tanti motivi potrebbero rivelarsi meno convenienti di quelle che ci possiamo aspettare. Ecco, dove si trovano i costi di cessazione? Dove sono scritti? Nei contratti che abbiamo firmato? Io consiglio sempre di verificare un attimino il sito dell'Agicom, perché l'Agicom stabilisce un po' gli indicatori di qualità, i tempi di riparazione, i costi e le velocità rilevate. E poi sul contratto, che prima di essere sottoscritto ritengo che sia doveroso spendere un po' di tempo e leggere attentamente su quelle che sono un po' le clausole. Abituiamoci un pochino a utilizzare internet non solo per i propri divertimenti, ma anche per confrontare un po' le offerte, come abbiamo fatto noi, dove per esempio abbiamo visto anche come anche i costi e la potenza differiscono molto. Per esempio la Telecom considera i costi di attivazione, per esempio, su un'abitazione rispetto a quelli che sono poi i costi di cessazione che magari può proporre altre compagnie, come per esempio abbiamo la Vodafone che chiede dei scatti di 19 centesimi di scatto alla risposta, mentre in fibra ti propone dei costi fissi a 36 euro al mese rispetto ai 29, per cui tanti piccoli dati, numeri e valori che vale la pena un attimino verificare con pazienza. E vabbè, quindi grazie per questa utile informazione. Se poi qualcuno ha qualche altro dubbio può sempre chiamare l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, associazionedifesaconsumatori.it è il vostro sito, e lì poi si trovano anche tutti i numeri e quando siete aperti, insomma, la possibilità di contattarvi per chiedervi ulteriori dettagli. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento è tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.